Capitolo terzo. Il significato nascosto delle malattie e gli incurabili. Per poter intendere il significato delle malattie è necessario quindi possedere o avere sviluppato la sensibilità intuitiva, quella sensibilità che permette di intendere il senso occulto delle cose anche prescindendo dalla logica e dal ragionamento. Può essere interessante sottolineare il fatto che tale tipo di sensibilità, che viene di solito ritenuta una caratteristica dell'animo femminile, permette di conoscere e di riconoscere un certo tipo di realtà alla quale la facoltà di raziocinio e di logica, che di norma viene ritenuta invece una caratteristica dell'animo maschile, non può accedere. In effetti, se queste note fossero un giorno lette da persone prive di sensibilità intuitiva e giudicanti in funzione solamente di criteri di logica e di ragionamento, molte cose che qui vengono affermate potrebbero apparire poco sensate, se non addirittura ai limiti della follia, e certamente del tutto non probabili oggettivamente. Il fatto è che la conoscenza intuitiva non ha e non ha mai avuto bisogno di quelle prove e di quelle conferme di cui ha invece bisogno la scienza moderna. Essa, infatti, si riferisce direttamente al grande crogiolo di sapienza che Madre Natura pone a disposizione di tutte le creature che vivono secondo le sue immutabili leggi di armonia. E così come può insegnare ai grandi erbivori a distinguere le erbe velenose, come il ranuncolo o l'aconito, da quelle commestibili, o agli uccelli migratori ad intuire la rotta esatta da seguire con assoluta precisione, senza bisogno di strumenti, o alle api a costruire con immutabile perfezione le celle esagonali dei loro alveari, essa può insegnare e parlare agli esseri umani che posseggono ancora l'inestimabile potere di intuire i suoi insegnamenti. E di certo, solamente coloro che malgrado i tempi posseggono ancora un minimo di tale inestimabile facoltà potranno intendere ciò che viene enunciato in questi scritti e nel contempo sentire che tali enunciati sono giusti, senza bisogno di dimostrazioni o conferme. Che gli altri giudichino invece pure secondo i loro soliti criteri di logica razionale di cui sono prigionieri. Certamente per costoro sarà molto difficile avvicinarsi al grande crogiolo di sapienza, di vita e di armonia che Madre Natura mette a disposizione di chi vive secondo le sue immutabili leggi, mentre sarà invece per loro molto più sensato continuare a vivere, a pensare, ad agire in modo innaturale e contronaturale. Di certo sarebbe praticamente impossibile, qualora si volesse operare su persone di tale tipo, cercare di ottenere dei successi usando le tecniche terapeutiche che vengono descritte in queste brevi note. Infatti, le terapie della medicina arcaica, o sottile o intuitiva, che dir si voglia, non funzionano certamente in tutte le persone nello stesso modo. In alcuni rari casi esse permettono di ottenere un successo completo. In altri casi si ottengono dei risultati mediocri, mentre in molti casi la pratica di tali terapie dà dei risultati scarsi o nulli. Per spiegare questa varietà di risultati si deve ritenere che la medicina arcaica agisca al meglio nella persona arcaica, ovvero nella persona nella quale tutte le facoltà sottili, naturali, che potremmo anche definire poteri magici di ricezione e di azione, sono presenti ed attive. Mentre nell'uomo integrato e nel mondo moderno sono pressoché inefficaci. In una persona di tal genere, ovvero in un individuo che sia riuscito a mantenersi naturale, la qualcosa può considerarsi un fatto estremamente raro nella civiltà occidentale dei nostri tempi, la malattia ha inoltre un significato ben preciso, che non è necessariamente sempre negativo, come ritiene la moderna medicina scientifica. Per mezzo di alcune malattie, e in particolare di quelle caratterizzate dal fatto di far diminuire la normale coscienza di veglia, come certe influenze o certe febbri, una persona di questo genere può, ad esempio, separarsi temporaneamente dalla sua corporeità fisica e avere delle esperienze trascendenti, ovvero può avere delle utili e importanti visioni o ancora degli incontri con entità che possono essere incontrate solamente in una dimensione extracorporea. La capacità di usare la malattia come un mezzo per acquisire una consapevolezza extracorporea può permettere alle persone naturali di intendere certi processi morbosi quasi come un aiuto, che permette loro di rinforzarsi, di conoscersi meglio e soprattutto di identificarsi maggiormente nella dimensione sottile che esisteva prima della loro nascita e che continuerà ad esistere dopo la morte fisica. Certe malattie possono inoltre avere un carattere espiatorio, ovvero avere il senso di un pegno o di un debito che si paga in termini di sofferenza fisica o psichica per un errore o una lesione nei confronti della legge naturale compiuto o in tempi recenti o addirittura in tempi molto lontani che potrebbero essere persino precedenti alla nascita. In un caso del genere, che solo la guaritrice intuitiva può riconoscere, la cura della malattia potrebbe essere controproducente, dato che il debito da pagare si potrebbe ripresentare nel tempo, magari in forma diversa, cioè in forma di un accidente che potrebbe benissimo non avere le caratteristiche di una malattia fino a quando non sarà stato estinto. Naturalmente le malattie possono avere anche un senso negativo e in tal caso si deve sapere distinguere le aggressioni provenienti da persone o dimensioni oscure, le malattie fatali, e cioè aventi relazione con il particolare destino dell'individuo, e le malattie che la parte sottile dell'individuo stesso causa alla propria parte fisica al fine di dare un messaggio o forse un avvertimento all'io esterno, ovvero all'io pensante e senziente della persona. Le aggressioni provenienti da persone o dimensioni oscure hanno il significato di un attacco di forze caotiche, aventi lo scopo di ledere o annichilire l'armonia dell'individuo. Dato che l'individuo di cui parliamo è una persona arcaica, ovvero naturale, tali attacchi sono paragonabili alla continua violenza e alla continua distruzione che viene ogni giorno praticata nei confronti della natura. Infatti, in un contesto di medicina arcaica, ciò che succede in bene o in male alla singola persona succede a tutto il mondo e ciò che succede a tutto il mondo succede alla singola persona. Tale legge vale ovviamente solo per gli individui naturali, che siano cioè in sintonia con madre natura, ovvero con quell'energia armoniosa e luminosa che nei tempi antichissimi fu chiamata Grande Madre. Non vi è alcun dubbio che la manifestazione naturale della Grande Madre, ovvero il mondo e tutte le creature che in esso vivono, sono in questo periodo sottoposte ad attacchi e distruzioni di tutti i tipi. Anche le donne e gli uomini naturali corrono il rischio di seguire questa sorte, sia per cause di violenza fisica, sia per cause di malattie. Basta pensare, per intendere ciò, a quanto è successo in questi ultimi secoli agli ultimi popoli naturali del mondo, ovvero a quei popoli come gli aborigeni dell'Oceania, gli indiani nord e sudamericani, gli eschimesi e pochi altri, che o sono stati distrutti o sottomessi con le armi da fuoco, ovvero sono stati annientati dalle malattie portate dall'uomo bianco, conquistatore e portatore di una civiltà, di una religione, di un sistema di vita non più naturale. Uno scampo contro questo tipo di aggressioni, visto che ogni resistenza è impossibile, pari anzi che questo sia il periodo della storia del mondo in cui possono dominare le forze avverse all'armonia naturale e alle sue leggi, potrebbe consistere nel non mettersi in evidenza, nell'occultarsi, nel nascondersi. Si tratta cioè per le poche donne e per i pochi uomini che ancora vivono veramente, secondo le leggi non scritte della Grande Madre, di mascherarsi nel modo più credibile possibile, ovvero di assumere dei modi di comportamento del tutto normali per i tempi attuali. In realtà, al fine di impedire di essere individuati e attaccati dalle innumerevoli energie psichiche oscure, che potrebbero essere la causa di malattie, di incidenti o di altri inconvenienti di ogni tipo, bisognerebbe anche il più spesso possibile cercare addirittura di far finta di pensare e di sentire come oggi si usa pensare e sentire. Può essere utile quindi per chi non vive del tutto isolato, anche se non è detto che l'isolamento sia sufficiente per impedire degli attacchi da parte delle forze negative, fare finta di interessarsi per esempio di cinema o di teatro o di moda o addirittura di politica, al fine di ingannare tali correnti psichiche negative. Comunque, già l'adempimento delle numerose incombenze di ordine burocratico che affliggono coloro che vivono in questi tempi può contribuire a creare tale stato di invisibilità. Questi consigli sono validi soprattutto per chi non possiede una energia interiore talmente forte da metterlo al riparo da attacchi di questo tipo. Ma sia ben chiaro, Che riuscire ad acquisire una forza e un'energia sottile abbastanza forte da mettere a riparo da simili eventualità è cosa oltremodo difficile e rara. Va anche detto che in certi casi l'origine di tali attacchi può essere identificata nella disarmonia dell'ambiente di lavoro, ovvero nelle tensioni, nelle contrapposizioni o nei litigi dell'ambito familiare. Quando in un ambiente o in una famiglia vi è una costante tensione, ovvero vi è un comportamento del tutto antinaturale, è molto probabile che le persone più sensibili, che non hanno sviluppato in sé il potere di rendersi imprendibili o di sapersi difendere, possano essere vittime di oscuri attacchi provenienti o dallo stato di disarmonia ambientale che si satura di energie negative o magari dai familiari più cari, attacchi dei quali gli autori sono quasi sempre del tutto inconsapevoli. In effetti, certe persone hanno un potere distruttivo o malefico del quale non si rendono assolutamente conto, che agisce quando essi si contrappongono o si adirano, anche per motivi del tutto banali, con qualcuno. In genere, in questi casi, la persona che non ha sviluppato un sufficiente potere di autodifesa dovrebbe cambiare ambiente di lavoro, ovvero lasciare la famiglia in cui vive, anche se questo non è sempre facilmente attuabile nella società moderna. Naturalmente, quando tali attacchi si manifestano in forma di malattia, la terapia arcaica è sempre attuabile e, come vedremo, ha il senso di allontanare dall'individuo l'energia oscura che ha causato la malattia, ovvero di annichilirne l'aggressività e la violenza. Per quanto riguarda invece le malattie aventi in relazione con il destino dell'individuo, bisogna ricordare, per cercare di intendere questo tipo di casualità, l'antico detto che afferma che ciascuno è artefice del proprio destino. Tale costruzione del destino individuale non va, a mio avviso, riferita solamente alla vita che ciascuno sta vivendo, ma anche a forme di vita precedenti la nascita. Con questo voglio dire che una persona può ereditare delle fortune o delle sfortune da avvenimenti o atti accaduti nel corso di precedenti esistenze, magari del tutto dimenticate, ma che tuttavia continuano ad avere degli effetti sulla vita che tale persona sta vivendo. La natura e le numerose energie sottili che interferiscono con la vita degli uomini e che gli antichi rappresentarono in questo aspetto di facitrici dei destini, come tre donne intente a tessere la sorte degli individui, possono riservare buona o cattiva sorte e anche quindi benessere o malattia a ciascuno secondo i suoi meriti o i suoi demeriti. Ed in questo senso è quindi evidente il significato dell'affermazione che ciascuno è artefice del proprio destino. Naturalmente tali meriti e tali demeriti non vanno assolutamente intesi in senso moralistico o magari riferendosi a ciò che si intende per buono o per cattivo, per giusto o per ingiusto, dal punto di vista del comune modo di pensare. Inoltre, ciò che può essere giusto per un certo ambito culturale non lo è magari per un ambito diverso, così come ciò che può essere giusto per una persona non è detto che lo sia anche per un'altra. Per fare un esempio a questo proposito, è evidente che un eschimese, che va magari a caccia di foche, dopo aver eseguito gli opportuni riti espiatori e propiziatori al fine di procurarsi del cibo e una pelliccia per difendersi dal freddo, non lede alcuna legge naturale e quindi non va incontro a sfortune derivanti dall'uccisione inutile e arbitraria di un animale. Al contrario, il solo fatto di indossare una pelliccia di un animale selvatico o allevato proprio a tale scopo, senza nessun reale bisogno, ma semplicemente per motivi di moda o di futile prestigio personale, così come spesso fanno le signore della buona società dell'Occidente moderno, è senza dubbio una lesione delle leggi naturali, un affronto alla grande madre, che sarà probabilmente una causa di sfortuna, che potrebbe manifestarsi anche come malattia in tempi o in vite future. Gli esempi di questo genere, ovvero le violazioni delle leggi naturali, vengono considerati del tutto normali dal pensiero moderno, se non addirittura incoraggiati o considerati necessari per motivi economici, sociali, di sicurezza, di convenienza e via dicendo. Basti pensare alla distruzione delle foreste, all'inquinamento delle acque e dell'aria, alla distruzione della fauna, all'allevamento degli animali da macellare, allo scavo di pozzi e di gallerie, alla produzione di enormi quantità di rifiuti, alla distruzione degli ultimi popoli naturali e via dicendo. Le lesioni e le violazioni dell'armonia naturale sono oggi così gravi, così spesso ripetute e considerate così normali dalla quasi totalità delle persone, che verrebbe da pensare che per molte di esse le violazioni dell'ordine naturale abbiano raggiunto un punto di non ritorno, nel senso che costoro non sono più considerabili in relazione all'ordine naturale del mondo, ma bensì al di fuori di tale ordine, con tutte le conseguenze che da ciò potrebbero derivare. Molte persone, in altre parole, non seguono purtroppo più le leggi naturali, né di conseguenza vale più per loro la legge di conseguenzialità, di fortuna o di sfortuna in relazione alle loro azioni. Nessuno tesse più la sorte per simili individui abbandonati dalle forze sottili, e per essi la fortuna o la sfortuna avrà solamente un senso in termini di denaro o di successo, mentre in realtà la loro sorte sarà completamente affidata al caso. In questi termini si potrebbero intendere certe previsioni di alcuni antichissimi popoli relative ai tempi odierni, nelle quali si afferma che nei tempi più oscuri, vale a dire in questi tempi, la quasi totalità delle persone morirà giovanissima. Forse con tale affermazione non si intendeva alludere a una morte fisica e biologica, ma bensì alla snaturalizzazione di una gran parte dell'umanità. È evidente che per questa umanità snaturata, morta alle eterne leggi di armonia di madre natura, non avrebbe alcun senso né alcuna efficacia la terapia arcaica. Per essi, inoltre, le eventuali malattie, così come tutti gli avvenimenti della vita, positivi o negativi che siano, non avranno più un senso occulto di presagio o di avvertimento, di premio o di castigo in relazione al loro operare nel corso delle loro vite. In genere, però, prima che avvenga la definitiva separazione tra la parte dell'individuo, per la quale la vita avrebbe senso solamente se vissuta in sintonia con le eterne leggi di madre natura e con le forze d'armonia sottili che agiscono sulle persone che secondo tali eterne leggi vivono, e la parte più esteriore e caduca dell'individuo stesso, che potremmo chiamare io storico, o io senziente, o ancora io pensante, dato che tale parte si rende conto di esistere solo per il fatto che percepisce il trascorrere del tempo, il succedersi degli accadimenti, lo stare bene o lo stare male, il pensare o il sentire superficiale, si manifestano dei sintomi ben precisi che il medico intuitivo potrebbe definire agonia dell'io sottile, anche se, come vedremo, non è l'io sottile che va incontro alla morte, ma semmai l'io storico. Tali sintomi hanno il senso di un messaggio che spesso ha i caratteri di una sofferenza psichica, che in certi casi può diventare anche fisica, che l'io sottile cerca di mandare all'io esterno, ovvero l'io pensante o storico che dir si voglia. In altri termini, l'io sottile cerca di dire all'io esterno che lui sta proprio male, che non riesce più a stargli vicino, che potrebbe addirittura andarsene per sempre se le cose non cambiano, ovvero se le scelte di vita non vengono completamente rivedute, cambiate e rivoluzionate, nel senso di tornare ad essere più in sintonia con la grande madre e con le forze sottili che possono essere intuite e conosciute da chi con essa è in rapporti di sintonia armonica. Oltre che con stati di sofferenza fisica e psichica, la sofferenza dell'io sottile può manifestarsi con sogni ricorrenti o simbolici, nei quali vi è il senso di qualche cosa che si sta perdendo, ovvero di un viaggio che viene interrotto o di un affetto che si perde o altri simili significati. Si deve anche dire che poi, in effetti, non è ovviamente l'io sottile che muore, ma semmai il contrario, e cioè l'io esterno e storico, che privato della parte più reale della persona, si trova a sopravvivere ancora per qualche anno o qualche decennio, per poi incorrere nel totale annientamento che sopravverrà con la morte fisica. L'io sottile, qualora la separazione con l'io pensante diventasse definitiva, entrerebbe probabilmente in uno stato di letargo, di abulia o di disinteresse nei confronti di ciò che avrebbe dovuto essere invece la sua finestra e il suo braccio per vedere e per operare nel mondo storico. In altri termini, l'io sottile si disidentifica dalle azioni, dai pensieri e dai sentimenti dell'io esteriore. Egli ripudia e rifiuta la sua esperienza di vita e da lui definitivamente si stacca. All'individuo, in questo caso, rimane solamente una vita che da un punto di vista sottile non ha nessun significato. Una vita assolutamente profana e priva di magia e sacralità, anche se, certamente, nella gran maggioranza dei casi di ciò non si rende assolutamente conto. È evidente che l'intervento della medicina intuitiva ha il massimo del suo senso quando impedisce la separazione tra la parte sottile dell'individuo e la manifestazione corporea e personale. In casi molto rari si può anche cercare di risintonizzare un io sottile già staccato dall'io storico, anche se un intervento di questo genere è certamente molto difficile e, ove riuscisse, potrebbe avere tutte le caratteristiche di un miracolo, dato che un avvenimento di questo genere potrebbe essere paragonato a riportare alla vita qualche cosa che era già morto. Comunque, solamente quando la sintonia tra la parte perenne dell'individuo e la sua parte caduca viene realizzata, e per ottenere tale risultato a volte ci vuole un lavoro di anni, la terapia di tipo arcaico, soprattutto con le sue tecniche simboliche e analogiche, funziona in modo ottimale, dato che ci si trova di fronte a una persona nella quale la potenzialità magica è ben attiva e in grado quindi di difendersi e in certi casi di usare gli stati di disarmonia fisica o psichica che si dovessero presentare. Su tutte le altre persone, queste tecniche invece, come già ho detto, o non funzionano o funzionano solo parzialmente e anche a volte in modo imprevedibile, nel senso che possono dare dei risultati del tutto diversi da quelli che ci si sarebbe aspettati. Ad esempio, una persona nella quale il riavvicinamento a quella dimensione di naturalità e di conseguente sensibilità analogica è a buon punto, potrebbe, in certi casi, curarsi un incipiente malessere, semplicemente esponendosi al vento o immergendosi nelle pure acque di un fiume, facendosi portare via dall'aria o dall'acqua la malattia che sta arrivando, secondo uno schema di evidente analogia. È però anche chiaro che una persona del tutto normale, e nella quale quindi tale meccanismo non può funzionare, otterrebbe con ogni probabilità da una pratica di questo genere un peggioramento delle sue condizioni. Naturalmente, invece, sulle persone normali hanno una discreta efficacia le terapie erboristiche e quelle fisiche, come l'uso della creta assorbente, i suffumigi, l'uso del caldo e del freddo, i massaggi, l'unzione con oli essenziali e tutte quelle tecniche che agiscono in modo duplice, ovvero sia sul sottile sia sul corpo fisico. Dato che nelle persone normali l'azione sul sottile è difficilissima o impossibile, si deve ritenere che il motivo per il quale tali sostanze conservano una discreta efficacia consista proprio nel fatto che esse posseggono anche una normale azione farmacologica. Anche per questo motivo è in genere inutile e potrebbe anche essere controproducente usare tali tecniche in modo rituale, ovvero chiamando o mettendosi in relazione con certe energie sottili nell'atto di usare tali tecniche, oppure, nel caso di erbe dotate di proprietà salutari nel momento della loro raccolta. Infatti, un tale modo di agire può caratterizzare solamente la medicina arcaica con tutte le caratteristiche di sacralità che la contraddistinguono e che, per i motivi in precedenza spiegati, può essere usata solamente con certe persone, dato che un uso improprio di tale tipo di medicina, ovvero solo per scopi profani, potrebbe avere le caratteristiche di un sacrilegio. Che ognuno quindi curi i suoi con i sistemi più adatti, al medico scientifico si affidino coloro che condividono il pensiero scientifico e che vivono secondo le mode e i miti di questi tempi. Probabilmente otterranno da lui la cura migliore per il loro modo di essere, mentre a chi pratica la medicina arcaica, con tutte le sue caratteristiche di sacralità e di mistero, si affidino quelle rare persone che per il loro modo di essere sono ancora in sintonia con Madre Natura, o che tale sintonia vorrebbero ritrovare, anche a costo di rinunciare a quei modi d'essere, di agire, di pensare e di giudicare che caratterizzano l'uomo moderno, civile, evoluto e raziocinante.